Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Capitolo 32esimo. A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare. E questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che a Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo. Crac, crac, crac, crac, crac. E nel grattarsi il capo si accorse, ma indovinate un po' di che cosa si accorse. Si accorse con suo grandissimo stupore che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo. Voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini che, ad occhio nudo, non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando dové toccar con mano che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di palude. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio, empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandovisi dentro, vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro, ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle acutissime grida, entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente: «Che cosa hai, mio caro Casigliano?» «Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso?» «Un pochino!» «Senti dunque se per caso avessi la febbre.» La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso a Pinocchio, gli disse sospirando: «Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia. Cioè, tu hai una gran brutta febbre.» «E che febbre sarebbe?» «È la febbre del somaro.» «Oh, non la capisco questa febbre», rispose il burattino, che l'aveva purtroppo capita. «Allora te la spiegherò io», soggiunse la marmottina. «Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo.» «E che cosa sarò?» «Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino, vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato.» «Oh, povero me, povero me!» gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un altro. «Caro mio!» replicò la marmottina per consolarlo. «Che cosa ci vuoi fare tu? Oramai è destino, oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliano a noia i libri, le scuole ed i maestri passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari.» «Ma davvero è proprio così?» domandò singhiozzando il burattino. «Oh, purtroppo è così. E ora i pianti sono inutili. Bisognava pensarci prima.» «Oh, ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo.» «E chi è questo Lucignolo?» «Un mio compagno di scuola.